Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. :16:40, buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi arrivano anche da Mire Lucchetti, Nadia Zammitti che sono in redazione, Robby Scaltriti in regia. Vi ricordo subito le coordinate per interagire con noi, domande, commenti, suggerimenti, 349-238-6666, gli sms, Twitter, Nessun Luogo 24, oppure Jampaz, e infine, se volete dilungarvi nei commenti, Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano-Radio24. In quest'ora di grande attualità internazionale inizio raccontandovi la finanza del terrore. Potenza distruttrice di ISIS, dello Stato Islamico, ci impone una serie di riflessioni, che è quella che abbiamo cercato di fare nelle ultime puntate di Nessun Luogo Lontano. Riflessioni sul controllo del territorio, anche sull'uso del lessico, perché non si può più parlare di terrorismo pure semplice, riflessioni sull'ideologia, su quella potenza attrattiva del brand, su quell'idea del califfato. Tutto questo ovviamente non sarebbe possibile senza le armi, senza le risorse, senza appunto il controllo del territorio, senza il reclutamento di uomini, ne abbiamo parlato, ma anche e soprattutto di soldi, di denaro liquido. Da dove arrivano questi soldi? Quali sono le fonti di finanziamento? Come vengono mossi milioni di dollari in zone di conflitto? Pensiamo a valigette, dobbiamo pensare ai ricargo, a conti correnti, a banche compiacenti, e soprattutto quali sono gli attori coinvolti. Oggi a Nessun Luogo Lontano proveremo a mettere qualche punto fermo sulla finanza del terrore, ma anche qualche punto di domanda. E in questo senso studiare crisi e conflitti del passato ci può dare una mano per capire meglio cosa sta accadendo nel presente. Allora do il mio buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano a Francesco Strazzari da Oslo, che è ricercatore al Norwegian Institute of International Affairs ed è membro anche del Consorzio per la ricerca sul terrorismo e il crimine internazionale. Strazzari, buongiorno, benvenuto nel suo luogo lontano. Buongiorno. Allora, dicevo, partiamo dalla storia, perché oggi a Nessun Luogo Lontano tenteremo di analizzare quali sono le linee di finanziamento soprattutto di ISIS, ma per chi studia, per chi analizza questi fenomeni, un caso di scuola che lei conosce molto bene perché lo ha studiato, è andato anche sul terreno, è quello del Kosovo. Nonostante embarghi, nonostante un sanguinoso conflitto, i controlli, comunque i soldi riuscivano a arrivare in Kosovo. Da dove e come arrivavano? Beh, il caso degli albanesi di Kosovo, come tutte le diaspore e quindi i movimenti migratori, è la storia di lavoratori all'estero, gastarbeiter, che si organizzano in uno sforzo che inizialmente fu quello di sostenere le strutture politiche alla casa madre, quindi nella provincia tenuta sotto Slobodan Milošević, attraverso un fondo inizialmente che veniva chiamato il fondo 3%, al quale tutti i lavoratori in Europa versavano volontariamente, e si stima che più o meno il 70% lo fece effettivamente, il 3% del proprio income, del proprio reddito annuale, dietro rilascio di un certificato e di una serie di controlli che hanno fatto sì che questo fondo, che aveva sede a Weißenhorn in Germania, dalle parti di Ulm, passò addirittura a una serie di controlli da parte della polizia, dalle ispezioni bavarese all'epoca, e venne licenziato come un fondo del tutto normale. In realtà i soldi servivano a gestire una partita politica molto delicata, cioè l'ufficio di Ibrahim Rugova e tutti i servizi sanitari, i servizi scolastici della Repubblica autoproclamata indipendente di Kosovo, e venne sfidato questo conto da un altro conto che emerse quando la partita sulle montagne della Drenica si fece violenta, un fondo che si chiamò Homeland Calling, che aveva sede invece in Svizzera e che prevedeva invece nessun tipo di certificato né nulla, accettava contanti, cash direttamente e andava arrivava direttamente all'acquisto senza farne mistero di armi e fucili da caccia che poi talvolta venivano intercettati per esempio in Italia. In Italia questo conto si appoggiava, venne scoperto su una filiale dalle parti di Fabriano, della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana. Supramontana venne poi fermata l'operazione, ma si cominciò a capire all'epoca quanto articolato e capillare poteva essere il movimento di denaro, di contante, non necessariamente tutto a passare attraverso gli indumenti e le valigie, c'erano anche operazioni estero su estero che minimizzavano il rischio di essere intercettati. Ecco, tutto ciò accadeva negli anni 90 e Strazzari, lei ha descritto un'architettura piuttosto complessa, anche abbastanza fluida, nel senso che era capace, no, di adeguarsi rispetto alle esigenze, ai cambiamenti magari sul fronte, sul terreno. Però veniamo ai giorni nostri, che è poi il cuore della puntata di Nessun Luogo Lontano di quest'oggi. La stampa qualche giorno fa raccontava di finanziamenti dal Qatar all'ISIS, venivano citate fonti del Dipartimento americano, venivano citati virgolettati di ministri tedeschi, insomma si puntava il dito contro il Qatar. Che cosa c'è di vero secondo lei? Dunque, c'è un'enorme operazione di guerra anche mediatica dietro questo tipo di ragionamento che vede anche la rivalità eterna tra i due stati wahhabiti della regione del Golfo, che sono Arabia Saudita da una parte e Qatar dall'altro. Ricordiamo che i qatarini vengono definiti da un principe saudita qualche anno fa come 300 uomini con un canale televisivo, riferendosi in maniera sprezzante ad Al Jazeera, e quindi bisogna prendere con cautela le informazioni che vengono su questo versante. Certo è che sia Qatar che Arabia Saudita hanno versato moltissimo e hanno portato carghi, non hanno mai fatto mistero di avere trasportato armi verso la Siria nel tentativo di ribaltare il regime di Assad, ed è del tutto plausibile e provato che una volta che fondi e armi arrivano in uno scenario di guerra passano di mano velocemente, secondo le convenienze strategiche del momento, su fronti che sono estremamente frastagliati. Sicuramente una buona parte di quei finanziamenti, anche qatarini, sono arrivati nelle mani dell'ISIS o dei suoi progenitori, quando ancora ISIS non c'era. Il Qatar in realtà ha sempre detto di aver finanziato una fazione della ribellione anti-Assad, che sono l'Islamic Front, che non ha nulla a che vedere con tutto questo. Altra cosa è capire se una volta che ci si è resi conto che è nato un Frankenstein sul terreno, in realtà l'ISIS è nato in Iraq già prima, altri individui ricchi, figure prominenti di spicco più o meno legate ai regimi, individui del mondo degli affari o telepredicatori sauditi che hanno fatto raccolte disinibite tramite trasmissioni televisive, hanno invece convogliato denaro per canali privati verso la Siria, e anche questo è molto plausibile che continui. La favola che gira è che in alcuni principati, in alcuni emirati del Golfo, intorno ai tavolini dei ristoranti ci sia chi fa vedere tramite YouTube filmati di esecuzioni e combattimenti, mostrando con un certo orgoglio che quella è la sua brigata, il suo gruppo, il gruppo che sponsorizza, e questo, come dire, dà anche un certo status da quelle parti, ma questa è una leggenda, se vogliamo. Sì. Quindi, se posso riassumere, diciamo, quello che è più plausibile, più che un coinvolgimento del Qatar in quanto Stato, è magari il coinvolgimento di singoli ricchi e facoltosi finanziatori dei gruppi, tra cui ISIS. Sì, il Qatar è sotto accusa soprattutto da parte di quello che è il fronte che si è andato staccando da Qatar e Turchia. Qatar e Turchia è un'alleanza molto chiara sia sul quadrante medio orientale che in Libia quest'oggi. Dall'altra parte abbiamo Egitto, Sauditi, per certi versi altri stati arabi, tra cui gli Emirati Arabi, che hanno attaccato con i propri jet le postazioni degli islamisti in Libia proprio due giorni fa. Sì. E quindi c'è una parte, come dire, anche di guerra mediatica dietro queste illazioni. È del tutto vero però che oggi stesso il presidente egiziano Al-Sisi ha detto che il Qatar sta destabilizzando con i propri fondi il Medio Oriente, ma il Qatar, qui bisogna distinguere, è presente ovunque. Il principe del Qatar, Al-Thani, ha offerto 2,2 miliardi di euro per prendere in mano la Plaza de Toros di Barcellona e fare la più grande moschea d'Europa, tale da ospitare 40.000 fedeli, prima dei mondiali di calcio che il Qatar dovrebbe ospitare nel 2020. Il Qatar ha in mano il Paris Saint-Germain e ha il proprio simbolo sulla maglia del Barcellona Football Club, quindi bisogna distinguere. Il Qatar sicuramente ha una grande visibilità mediatica, altri stati hanno deciso di tenere un profilo molto più basso e critica per sua parte sauditi e altri finanziatori dal mondo del Golfo, che hanno sempre finanziato le fazioni islamiste anche più intransigenti, le critica per avere una visione ultraconservatrice. In realtà, se uno va a guardare, come dire, gli elementi teologici, non c'è una grande differenza. L'ultima domanda che le farei, Strazzari, è invece su questo braccio di ferro che lei ha appena tratteggiato, no? Tra Arabia Saudita e Qatar, entrambe coinvolte, comunque entrambe sul fronte in maniera diversa, e forse anche l'ondata mediatica contro il Qatar è, come dire, il contraltare della potenza mediatica di Doha, che ha un canale televisivo che io ricordo, mi ricordo le trasmissioni di Al Jazeera mentre ero in Libia nel 2011, insomma erano fortemente schierate, soprattutto Al Jazeera Arabic, non tanto Al Jazeera English. Quindi forse questa ondata mediatica è, come dire, un paradossale contraltare che le si viene rivoltata contro, ma questo braccio di ferro Arabia Saudita-Qatar su cosa verte? Secondo lei? Si stanno disputando l'egemonia sul mondo sunnita e arabo, nel momento in cui diciamo, il nazionalismo arabo è andato in frantumi con le grandi rivoluzioni che abbiamo visto intorno al Mediterraneo negli ultimi anni. Sicuramente c'è una cosa chiara, che il Qatar ha usato Al Jazeera come la testa di ponte, l'elemento mediatico, per tentare una democratizzazione del mondo arabo attraverso i fratelli musulmani. Questa è una lettura, diciamo, forse un po' approssimativa, ma per grandi tratti funziona. E l'Arabia Saudita, al contrario, vede i fratelli musulmani, che ha avversato persino sul terreno dell'Egitto, quando Al-Sisi ha fatto il colpo di Stato un anno fa, l'Arabia Saudita ha applaudito questo elemento. Perché? Perché vede i fratelli musulmani come una minaccia per la stabilità della propria linea dinastica interna. Dietro questo grande scontro ci sono ovviamente grandi manovre anche finanziarie a livello internazionale. L'Arabia Saudita ha annunciato una settimana fa di un'enorme donazione alle Nazioni Unite per fare uno studio, un centro di studi sul terrorismo, che ovviamente cercherà di influenzare anche i modi in cui definiamo il terrorismo da un punto di vista mediatico, perché coniugherà delle categorie attraverso una grande operazione di investimento sulla ricerca. E quindi dietro le quinte abbiamo una rivalità del tutto evidente, in cui si giocano anche degli elementi, diciamo, di sopravvivenza dinastica, e tutto questo, se lo vogliamo leggere il riflesso forse più banale, lo vediamo sulle compagnie aeree. Insomma, abbiamo l'Italia che è entrata nell'orbita degli stati del Golfo, abbiamo il Qatar che è molto presente, le compagnie aeree del Golfo, utilizzando petrolio a bassissimo prezzo, quasi nullo, hanno di fatto preso in mano tutte le grandi rotte intercontinentali, soprattutto verso l'Asia, e i grandi paesi come Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi sono dietro questo grande gioco che tocca le sponde del Mediterraneo e arriva fino all'Italia. Grazie Francesco Strazzari per questa complessa lettura di quello che sta accadendo sul fronte finanziario, non solo nel grande Medio Oriente. Lo ricordo, Strazzari è ricercatore al Norwegian Institute of International Affairs e anche parte del Consorzio per la ricerca sul terrorismo e il crimine internazionale. Strazzari, grazie, buona giornata, buon lavoro. Anche a voi. Questo era un primo tratteggio delle linee di finanziamento di ISIS, come si muovono questi soldi, da dove arrivano. Adesso però io vorrei entrare nelle casse di ISIS, vorrei capire questi 2 miliardi di dollari da dove provengono. E in realtà il racconto non può prescindere da, perdonatemi la prosaicità del racconto, ma forse dalla più grande, più eccezionale rapina in banca degli ultimi decenni. Ci supporta in questa analisi Stefano Torelli, ricercatore di ISPI. Torelli, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, la linea con Torelli è zoppicante, mi sente? Sì, io mi sento. Eccoci, perfetto. Eccoci. Allora, dicevo, la più grande rapina in banca forse degli ultimi decenni, quantomeno, come dire, località esotica. Siamo a Mosul, quando ISIS prese Mosul assaltò anche la banca centrale. Con che risultato, Torelli? Il risultato che ha ottenuto l'ISIS dall'assalto appunto alla banca centrale irachena di Mosul è stato abbastanza eclatante, cioè da un giorno all'altro, da un momento all'altro l'ISIS si è trovato di fatto con circa 430 milioni di dollari in più nelle proprie casse, che era appunto il frutto di questa, chiamiamola così, rapina, ma in effetti l'edificio è stato preso, e quindi insomma tutto ciò, tutti i soldi che erano nelle casse, nei depositi nella Banca Centrale Irachena di Mosul sono stati così fatti propri da ISIS. Da quel momento l'ISIS di fatto, come molti analisti insomma hanno anche fatto notare, da un giorno all'altro diveniva uno dei gruppi terroristici più ricchi di tutto il mondo. Ecco, fra l'altro lei mi confidava fuori onda che da alcune fonti sulle quali stava lavorando pare che cercassero anche le matrici che poi non furono trovate, il che, come dire, rivelerebbe una conoscenza degli obiettivi da parte dello Stato Islamico estremamente approfondita. Questo qui è uno degli obiettivi che probabilmente, secondo quanto dichiarato anche da fonti ufficiali irachene, era uno degli obiettivi dell'ISIS, cioè quello di appunto trovare, rintracciare le matrici per poter direttamente stampare moneta e così dare vita a quello che poi nella loro ottica dovrebbe essere il loro Stato, appunto lo Stato Islamico o il Califfato. Tra l'altro è curioso, questo va di pari passo con la prima emissione di passaporti, di documenti da parte dell'ISIS, sempre grazie alla presa dell'ufficio, diciamo, delle carte d'identità di Mosul, che il governo iracheno usava per chiaramente appunto stampare carte d'identità per lo Stato iracheno, e che l'ISIS avrebbe trasformato momentaneamente in una sorta di ufficio anagrafe del proprio califfato. Sì. Stefano Torelli, ricercatore di ISPI, Istituto per gli Studi sulla Politica Internazionale. Adesso vorrei che ci aiutasse a capire come materialmente vengono mossi o trasferiti i soldi. Francesco Strazzari prima raccontava quel caso di scuola, il caso di studio del Kosovo, in cui molto spesso i soldi venivano portati anche brevi mano, quindi nascosti negli indumenti, per esempio nelle valigette. E nel caso di ISIS, nel caso degli attori che abbiamo citato a inizio trasmissione, che linee di finanziamento fisico, materiale possiamo ipotizzare? Allora, sicuramente anche nel caso dell'ISIS e soprattutto anche nel caso dell'ISIS, visto diciamo il particolare territorio geografico proprio in cui si trova, cioè un territorio in cui la presenza di controllo da parte dell'istituzione è molto debole, in cui i confini ormai sono quasi soltanto dei confini virtuali, in cui appunto il controllo è nelle mani, in molti aspetti, in molti casi nelle mani proprio dei terroristi stessi, quindi anche in questo caso diciamo il trasferimento cash, se così possiamo dire, quindi proprio affidarsi a dei veri e propri corrieri del denaro è uno dei metodi più utilizzati. Sicuramente, ecco, questo avviene come avvengono i traffici internazionali di altre merci illecite, come il traffico di droga per esempio, cioè una volta che si diciamo mettono insieme delle grandi somme di denaro da donatori privati in genere da dover trasferire all'ISIS, o insomma in questo caso all'ISIS, poi le somme di denaro vengono, diciamo così, spacchettate, divise in somme più piccole che poi i singoli corrieri provvedono a portare al di là del confine ai destinatari finali. Ecco, noi chiacchieravamo prima fuori onda e mi raccontava che uno degli hub fondamentali è il Kuwait, per una serie di motivi. Ci aiuti a capire perché il Kuwait è al centro di questa serie di operazioni finanziarie? Elemento che insomma sta venendo fuori negli ultimi tempi, anche il Dipartimento di Stato statunitense ha espresso delle preoccupazioni su questo fatto, cioè sul fatto che il Kuwait, a differenza degli altri stati del Golfo, soprattutto Emirati, Qatar e Arabia Saudita, abbia delle leggi dal punto di vista appunto del controllo delle banche, dei finanziamenti per prevenire finanziamenti terroristici, terroristi insomma molto meno restrittive, diciamo così, e questo ha fatto sì che il Kuwait sia diventato uno degli hub fondamentali del finanziamento ai gruppi terroristici. Chiaramente parliamo di non parliamo appunto del fatto che il Kuwait stia sovvenzionando i terroristi, stiamo parlando del fatto appunto che per una serie di motivazioni, soprattutto legali, dovute a un controllo meno rigido, è più facile convogliare, diciamo, grandi somme di denaro in Kuwait e poi da lì cercare di esportarle, diciamo, verso, in questo caso verso l'Iraq, tra l'altro anche seguendo rotte non dirette, cioè molte fonti dicono che poi da Kuwait in realtà spesso il denaro torna indietro dalla Turchia, poi alla Siria e poi nuovamente all'Iraq. Sì. Diciamo che, se sintetizzo bene, Torelli, diciamo lo smuggler, il contrabbandiere di denaro, il corriere, sfrutta la fragilità o l'ambiguità di un sistema giudiziario, di una legislazione bancaria che è un po' più morbida e quindi, esatto, diciamo, probabilmente anche a insaputa delle banche che li ospitano, riesce a muovere queste somme di denaro. Esatto. A volte però vi sono altri metodi estremamente, direi, più raffinati, ma allo stesso tempo anche più terra terra, no? Perché c'è una parola magica che si chiama Hawala. Esatto, questa parola Hawala richiama a un trasferimento informale, diciamo, un sistema di trasferimento informale del denaro che, come dice la parola appunto, è informale, però in realtà può essere molto efficace. È una pratica che diciamo è più radicata soprattutto nell'Asia, nel sud-est asiatico, però anche in Medio Oriente insomma è abbastanza diffusa e ha a che fare un po' anche con quanto accadeva insomma nel mondo islamico nei secoli passati addirittura. Diciamo la modalità con cui funziona, attraverso la quale insomma funziona questo Hawala, in realtà è abbastanza sorprendentemente semplice, se vogliamo. Possiamo fare un esempio pratico. Sì. La Hawala, per esempio, è il sistema che viene usato spesso, a volte, dai lavoratori che si trovano all'estero e che vogliono mandare denaro indietro alle proprie famiglie, le cosiddette rimesse. Facciamo l'esempio di un lavoratore pakistano che si trova a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e vuole mandare indietro alla propria famiglia una somma, per esempio di $10,000, mettiamo il caso. E cosa succede? Che il lavoratore che si trova a Dubai trova una sorta di broker nel posto in cui si trova, quindi in questo caso a Dubai, alla quale affida questa somma di denaro. A sua volta questo broker contatta un suo omologo in Pakistan, quindi dove il denaro deve arrivare, e fornisce all'altro broker in Pakistan un codice di trasferimento. E contemporaneamente il broker a Dubai dà questo stesso codice di trasferimento alla famiglia, mettiamo caso alla moglie del lavoratore pakistano che deve ricevere i soldi. Nel momento in cui in Pakistan la moglie del lavoratore e il broker pakistano si incontrano e hanno lo stesso codice di trasferimento, vuol dire appunto che il codice funziona e quindi i soldi vengono dati alla moglie. Sì. E la cosa, quindi, mi permetti di interrompere, perché la cosa impressionantemente efficace di questo sistema è che sostanzialmente non viene trasferito fisicamente il denaro, ma si trasferisce, esatto, la fiducia e questo codice, esatto, ed è un sistema che sfugge, no, a qualsiasi controllo, ovviamente, a meno che non si vada a pizzicare il broker. Nessun luogo è lontano. Le linee di finanziamento dell'ISIS, gli attori coinvolti e soprattutto come viene mosso quel fiume di denaro, questo il cuore della puntata di Nessun Luogo è Lontano di quest'oggi. Siamo con Stefano Torelli, ricercatore all'ISPI, l'Istituto per gli Studi e la Politica Internazionale di Milano, il quale ci stava elencando quelli che sono in buona sostanza i modi appunto per spostare denaro. Da un lato vi sono i corrieri, spiegava, dall'altro quindi materialmente, valigetta alla mano, portano il denaro, poi c'è il metodo Hawala che prevede il trasferimento non fisico del denaro ma il trasferimento di fiducia di un codice tramite due operatori che poi, siccome fanno affari nel lungo termine fra di loro, ebbene compenseranno crediti e debiti. E poi però Torelli, in sintesi se può, quali sono gli altri due metodi che possiamo analizzare? Sì, allora innanzitutto non abbiamo detto che anche nel caso del finanziamento a gruppi terroristici vi sono dei trasferimenti bancari veri e propri a volte. Questo succede chiaramente soprattutto con banche e con sistemi bancari che insomma presentano, diciamo così, meno problemi dal punto di vista della privacy, delle informazioni, sì, e così via. E poi anche un altro metodo che spesso viene usato, che è stato, diciamo, messo in luce soprattutto nel periodo subito post 11 settembre, ma che però in Iraq e nell'ISIS non sembra essere un metodo in realtà insomma molto usato, è quello di riciclare del denaro da poter trasferire poi a gruppi terroristici tramite un'operazione commerciale le cui fatture poi al momento della consegna vengono opportunamente gonfiate per far sì che il residuo possa essere riciclato e andare in mano ai gruppi terroristici. C'è da dire comunque che nel caso dell'ISIS un'altra fonte di soldi, proprio cash, insomma, di liquidi che ogni giorno quotidianamente entrano nelle casse dell'organizzazione è proprio data comunque dal controllo sul territorio e quindi da quello che già dall'ottobre-novembre scorso in realtà veniva descritto come una sorta di sistema mafioso nella città di Mosul, con l'imposizione di pizzi, con un giro di racket su piccoli, medi e anche grandi imprenditori, che secondo le fonti insomma portava nelle casse dell'ISIS circa 8 milioni di dollari al mese, senza contare infine la presa da parte dell'ISIS di alcuni pozzi petroliferi, soprattutto nel nord della Siria, che insomma tramite la cui vendita in nero l'ISIS guadagnerebbe una cifra che è stimata intorno a 1-1,5 milioni di dollari al giorno. Sì, e come mi permetto di aggiungere, Torelli, come raccontavamo in una scorsa puntata in Nessun Luogo Lontano, anche reperti archeologici che vengono venduti al mercato nero e piccoli oggetti dal valore inestimabile contribuiscono ad arricchire le casse di ISIS. Grazie mille Stefano Torelli, ricercatore di l'ISPI, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. (349) 238-6666 per i commenti e le vostre domande. Ve n'era una che in realtà è un po' fuori tema, però rispondo grazie anche a Francesco Strazzari che ci ha aiutato a fare luce. Vi ricordate quella foto che è girata parecchio sui social? La foto di McCain con il leader di ISIS. Allora Strazzari dice testualmente: bisogna essere molto cauti, c'è una disputa ancora in corso su quella foto lì. Le foto sono vere ma sono state fatte anni fa, quindi se qualcuno era ritratto e poi entrato nell'ISIS era impossibile da prevedere in quel momento, così dice Francesco Strazzari, che è esperto di terrorismo. Anche i nemici politici di McCain sui social sono stati molto cauti a riguardo. E poi un altro ascoltatore che dice: le guerre in Iraq, in Libia e Siria è una sorta di gioco del risico tra i grandi potenti arabi e gli Stati Uniti, e l'Europa, come sempre, è la pesante assente del gioco. Allora, abbiamo citato l'Europa, la prossima storia che vi racconto è proprio tutta europea, andiamo in Scozia. We couldn't stop the bedroom tax, we can't stop illegal wars, we can't stop the poor and disabled bearing the brunt of welfare cuts. We can't stop the spread of food banks in this prosperous country. We can't stop countless billions being wasted on a new generation of weapons of mass destruction. Now we have the opportunity to change all of that. Well, this is it. He's asking us to take his word for it on everything. No plan B for anything. E le voci che avete sentito erano quelle del dibattito televisivo di ieri sera fra Alex Salmond e Alistair Darling. Da una parte c'era Yes Scotland, dall'altra c'era Better Together, cioè le due componenti che si stanno fronteggiando in questo momento rispetto al quesito referendario, cioè la Scozia deve uscire o no dal Regno Unito. Si vota il 18 settembre. Do il mio buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano a Giancarlo Rinaldi, giornalista per BBC Scotland Online. Giancarlo, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo. Buongiorno dalla Scozia. Buongiorno. Allora, poi ti chiederò che aria tira in Scozia. Prima però, ascolta con noi. Noi abbiamo fotografato il quesito referendario. Il 18 settembre 2014 sarà la data decisiva per il lungo sodalizio tra il governo britannico e quello scozzese, iniziato oltre 300 anni fa. Gli scozzesi sono chiamati alle urne per decidere la scissione o meno dal governo di Londra. Il quesito referendario sarà unico e semplice. Sei d'accordo che la Scozia debba essere una nazione indipendente? Di fatto, però, anche in caso di vittoria del sì, la Scozia rimarrebbe all'interno del Commonwealth e il capo di Stato sarebbe sempre la regina Elisabetta II, come sancito dall'atto di unione del 1707. Dal punto di vista costituzionale, il Regno Unito è attualmente uno Stato unitario con un governo e un Parlamento sovrani. Il processo di devoluzione, iniziato nel 1997 a seguito di un referendum popolare approvato in Scozia e Galles, ha concesso un limitato autogoverno a queste due nazioni costitutive del Regno Unito. Il Parlamento del Regno Unito a Westminster continua però ad avere il potere di emendare, espandere, ridurre oppure abolire gli ambiti di autonomia evoluti a Scozia e Galles. Quindi il Parlamento scozzese non si può definire pienamente sovrano. Al momento il Parlamento scozzese ha competenza legislativa su tutte le politiche che riguardano giustizia, istruzione, sanità, tasse locali, trasporti, ambiente e ordine pubblico. A Londra rimane competenza esclusiva su politica fiscale, welfare, esteri, difesa ed una serie di altri temi elencati in via tassativa nello Scotland Act come materie riservate. Una questione che diventerà fondamentale nel caso in cui le due nazioni si dovessero dividere sarà quella energetica. Chi avrà titolarità sulle risorse petrolifere del Mare del Nord? Inghilterra, Scozia o entrambe? Dal 1970, quando le piattaforme hanno iniziato a trivellare, sono stati pompati 42 miliardi di barili di petrolio e gas che hanno dato un notevole impulso alle ricchezze della Gran Bretagna. Con il referendum del 18 settembre, questa fonte di guadagno potrebbe innescare rivolte fuori controllo. Ed eccoci qua, questa è la fotografia del referendum che il 18 settembre vedrà appunto gli scozzesi andare a pronunciarsi. Siamo con Giancarlo Rinaldi, che è un collega di BBC Scotland Online. Giancarlo, che aria tira? Manca poco ormai. Ieri il dibattito televisivo era bello surriscaldato, insomma. Almond e Alistair, insomma, non se le sono mandate a dire. No, adesso l'atmosfera è molto tesa, direi che siamo a soltanto 3 settimane, un paio di giorni dal voto e non c'è più posto da nascondersi, è tutto lì sul tavolo. La discussione ieri sera, il dibattito era molto molto viva, la maggior parte dei giornali ha dato la vittoria questa volta a Alex Salmond per l'indipendenza, però c'era un dibattito un paio di settimane fa che ha vinto Darling, quindi siamo sull'1 a 1 e si va verso i supplementari, direi. Vedremo questa partita, cioè noi sorridiamo, però c'è parecchio in gioco e lo avete sentito a partire dalle risorse. Uno dei temi, io ho sentito degli stralci del dibattito di ieri, fra i temi toccati c'era la valuta, quindi il fatto o meno di continuare a utilizzare la sterlina. Pensi che questo, oltre al petrolio, possa essere uno dei nodi cruciali nella decisione degli scozzesi? Penso di sì, soprattutto per quelli che sono piuttosto inclinati verso il no, verso il better together, perché hanno paura di perdere la sterlina e questo soprattutto per loro è stato, anche per Darling ieri sera nel dibattito, parecchie volte ha parlato della valuta e dell'importanza della sterlina e dei potenziali problemi economici se la Scozia dovesse perdere la sterlina, quindi sicuramente è un fattore importante nel voto. Un ascoltatore mi segnalava sulla pagina Facebook di potenziali disordini addirittura in alcune città della Scozia, insomma, su personaggi violenti che potrebbero agitare i prossimi giorni. Hai notizie di questo tipo di eventi? Io no, non ho sentito questo e francamente non penso che ci saranno problemi. Certamente gli argomenti sono più caldi, più intensi in questi giorni, ma non penso, non credo che ci saranno problemi, ma tutto può succedere, ma io non credo che questo avverrà in Scozia. Giancarlo, nei pub, nei luoghi sociali di ritrovo si parla di questo? È un tema ampiamente dibattuto, discusso, oppure rimane relegato, come dire, nel privato, nelle famiglie, nelle case? No, adesso sì, ogni pub, ristorante si trova gente che discute animamente del soggetto del referendum, perché adesso siamo nel vivo, abbiamo avuto quasi 2 anni per prepararci per il voto, certo. Ma adesso siamo al nodo e certamente senti discussioni molto vivi in pub, in ristorante si discute e la gente è divisa, tutti i sondaggi dicono che più o meno siamo divisi, la nazione è divisa a metà, un po' più per il no, più o meno l'ultimo sondaggio che ho visto era il 57% con 43% per il sì, ma direi che ogni tavolo, ogni pub si trova gente che è divisa, che discute questo soggetto ormai. Sì. Grazie Giancarlo Rinaldi, BBC Online, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro e buon voto a questo punto, fra un mesetto. Grazie. Nessun luogo è lontano. Allora, fra un mese si vota, gli scozzesi il 18 settembre decideranno se la Scozia sarà parte o meno del Regno Unito e vedremo appunto quale sarà la decisione. I sondaggi oscillano, l'opinione comune, avete sentito il termometro che ci ha restituito Giancarlo Rinaldi, e lì insomma si pareggia anche negli scontri televisivi, e quindi l'ultimo mese sarà evidentemente fondamentale, soprattutto per quella quota di indecisi. Cosa c'è dietro e come possiamo leggere questo referendum? Proseguiamo l'analisi, ci soccorre Leonardo Maisano, inviato del Sole 24 Ore a Londra. Leonardo, buongiorno. Buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, Scozia indipendente, i punti toccati fondamentalmente sono stati da un lato il petrolio con le postille, attenzione che però prima o poi si potrebbe esaurire, quindi come dire, basare la propria indipendenza su una risorsa in via di esaurimento può essere pericoloso. Secondo, la sterlina, quindi la valuta, con Salmond che diceva fondamentalmente Londra non può impedirci di continuare a usare questa moneta. Sono i due punti cardine secondo te sui quali si muoveranno gli scozzesi o c'è altro? No, certamente sono i due punti cardine, con la sterlina che diventa elemento dirimente, nel senso che se prevarrà la sensazione nella popolazione che la sterlina non potrà essere utilizzata e che quindi non potrà coesistere una unione monetaria in un regno disunito, allora in questo caso è molto più probabile di quanto già lo sia che il voto sia negativo. Questo perché gli scozzesi sono profondamente intimoriti dall'idea di rinunciare al pound. La sterlina è considerata una moneta solidissima, che a differenza dell'euro ha navigato la crisi molto bene, sono abituati ad utilizzarla, insomma non ci pensano assolutamente a rinunciarla. È anche per questo che Salmond nazionalista, il leader nazionalista e promotore del referendum, ha cavalcato invece subito l'idea dell'unione monetaria, trovandosi poi spiazzato in realtà per la politica di Londra, che è stata invece ferma per motivi opposti nel dire di no. Cioè la motivazione di fondo che muove Londra nel dire di no è quella politica, cioè sapendo che c'è un tale seguito tra la popolazione si rende conto che il negare l'unione monetaria porterà probabilmente a un no all'indipendenza della Scozia. Non so se tu hai seguito i dibattiti recentemente, però la sensazione che ho avuto io è ad un Salmond agguerrito, e lì forse si vede, come dire, anche la potenza del nazionalismo, no? In questo senso, che però dalle tue parole potrebbe sfumare di fronte alla moneta, a quel pound che tanto importa. Apriamo il capitolo petrolio invece, perché su quello Darling dice attenzione, perché quello si può anche esaurire, quindi noi dipendiamo da Londra, attenzione, e pensate ai vostri figli, ha detto, pensate al futuro, no? Sì, certamente il petrolio sta diminuendo, sono da 10 anni, c'è un calo progressivo del 7-8% all'anno, sono in corso nuove 7-8% nella produzione. Ora stanno cambiando le infrastrutture, stanno cambiando i macchinari, sono state fatte nuove esplorazioni, quindi è l'opinione, come dire, dei massimi esperti del settore che la produzione si stabilizzerà, anzi potrà aumentare nei prossimi anni, per prossimi 4-5 anni, poi riprendere un trend calante. Quanto questo trend calante sia rapido, cioè questo è tutto da valutare, quindi i tempi per l'esaurimento del petrolio potrebbero essere in realtà molto lunghi, anche se indubbiamente c'è un calo. Questa è la situazione del petrolio. Va detto che l'85% delle revenue, cioè dei ricavi del petrolio attualmente del mare del nord, andrebbero alla Scozia. Quindi la Scozia siederebbe su la stragrande maggioranza, come dire, della ricchezza petrolifera. Sì. L'aspetto contrario a questa fotografia è che però la Scozia si dovrebbe far carico di una parte consistente del debito nazionale del Regno Unito. E allora, Leonardo, un po' mi hai già risposto, però non riesco a capire dove pende la bilancia. Guadagna più la Scozia in una possibile indipendenza o perde di più la Gran Bretagna? È impossibile dirlo in questo momento, perché entrambi, come dire, gli indipendentisti dicono che ci guadagnano loro, e quello che è certo è che una Scozia indipendente sarebbe un paese ricco, per quanto non si può dirlo in che modo sfrutterà queste riserve per poi, come dire, avviare cicli economici diversi, diventare una specie di nuova Irlanda attraendo investimenti dall'estero con tassazioni. Queste sono politiche economiche di lungo termine che non si possono prevedere. Sì. Ma se in questo momento la Scozia diventasse indipendente, il reddito pro capita degli scozzesi sarebbe superiore a quelli del regno del resto della Gran Bretagna, sarebbe uno dei paesi più ricchi del mondo, nei primi 15. Sì. Fra l'altro, vabbè, noi adesso possiamo solo ragionare sulle ipotesi, però tu qualche giorno fa su Sole 24 Ore hai scritto quasi un divertissement, no? Nel senso che hai scritto: Scozia indipendenza fu, ed era cosa potrebbe succedere se vincesse il sì. E fra l'altro, in questo divertito e divertente pezzo, in qualche modo introducevi la possibilità che il caso scozzese possa in qualche modo fare scuola e avviare altro che Unione Europea, diciamo, disunione europea, che insomma. Certo, cioè da un lato, dunque, è una dinamica molto delicata, perché la Scozia è eurofila. Se domani ci fosse un referendum nel Regno Unito sull'ingresso, cioè sulla permanenza o meno nell'Unione Europea, la Scozia voterebbe massicciamente a favore della permanenza dell'Unione Europea. Il resto del regno, cioè l'Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, molto probabilmente invece voterebbero contro. Quindi la Scozia è in un Regno Unito, è l'elemento che potrebbe determinare il mantenimento, la permanenza dell'Inghilterra. E questo, come dire, è anche una crisi costituzionale, perché lungo il vallo si dividono due volontà diverse, due rapporti diversi verso l'Unione Europea. Certo. Questo è un problema, ma un problema ancora più grave è quello che innescherebbe l'esempio scozzese, non solo nel resto del Regno Unito, ma nel resto d'Europa. Leonardo, al 349-238-6666, un ascoltatore chiede, io devo confessare la mia ignoranza, dice, vige anche in Scozia il bizzarro, così dice l'ascoltatore, quorum all'italiana per rendere valido il referendum, oppure chi vota decide, cioè qualsiasi sia la percentuale degli... No, non c'è un quorum. E quindi insomma, chi va a votare deciderà, fossero anche il 10%, ma non credo, perché i sondaggi danno una partecipazione notevole, no? È molto sentito questo referendum. Sì, è un problema che non si pone, sì. Grazie, grazie mille. Allora, Leonardo Maisano, inviato al Sole 24 ore all'Onda, grazie per essere stato con noi e per questa puntuale analisi sulle conseguenze possibili di un sì all'indipendenza. Grazie, buona giornata e buon lavoro, Leonardo. Arrivederci poi. Allora, siamo quasi in chiusura, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Io volevo però tornare sulle vicende di Boko Haram, una piccola parentesi africana in chiusura di questa puntata In Nessun Luogo È Lontano, perché è notizia delle ultime ore che le forze, l'esercito, le forze di difesa nigeriane hanno sconfinato in Camerun a caccia dei miliziani di Boko Haram. Questo ci dà le dimensioni di quanto la finora sottovalutata crisi del gruppo estremista sia invece da prendere con tutte le conseguenze del caso. Noi abbiamo raggiunto una blogger nigeriana che in realtà è di base a Lagos, Jennifer Idi Amen, però è stata molto utile per capire che percezione hanno i nigeriani anche nel sud, quindi molto distanti di quello che sta avvenendo. Sentite. Penso che quanto succeda in Nigeria riguardi tutti i nigeriani, indipendentemente da dove abitino. Il fatto che Boko Haram colpisca il nord-est non vuol dire che a Lagos non vi siano conseguenze. Alcuni prodotti che vengono dal nord ora costano di più, come per esempio i pomodori e altre verdure. Poi ci sono scontri per la benzina, il cui prezzo si è alzato per colpa di questa crisi. In generale, qui a Lagos la gente non ha paura come nel nord-est, ma siamo comunque informati e coscienti delle conseguenze che Boko Haram ha anche su di noi. E l'altra domanda che ho fatto alla blogger nigeriana Jennifer Idi Amen era su quella campagna che ieri in qualche modo avevo criticato, nel senso che mi sembrava una cosa abbastanza ipocrita e miope, era la campagna Bring Back Our Girls. Per quanto mi riguarda, questa campagna mi ha un po' disturbato. L'hashtag Bring Back Our Girls mi è sembrato uno slogan molto facile, un po' riduttivo rispetto al problema. Se sei davvero appassionato alla causa, ho pensato, dovresti fare pressione sul governo perché prenda provvedimenti e non solo twittare un hashtag. Sicuramente la campagna ha avuto il merito di far uscire il problema di Boko Haram oltre i confini nigeriani, ma si è esaurita in molte parole e poche azioni. Solo pochi gruppi hanno davvero fatto qualcosa di concreto. Secondo me la campagna sarebbe dovuta andare oltre alla richiesta di liberare le ragazze rapite. Si sarebbe dovuta concretizzare e avrebbe dovuto spingere il governo a proteggere le strade, le scuole e tutti i nigeriani, non solo nel nord-est, ma anche nel resto del paese. Questo rapimento avrebbe dovuto portare a qualcosa di più, a un'azione concreta e non solo a una frase come Bring Back Our Girls. E così si chiude il racconto di quest'oggi di Nessun Luogo Lontano. Grazie a Mira Lucchetti, Nadia Zammitti, con me in redazione, Roberto Scaltriti in regia. Grazie a voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.